quando Bonaccini diceva la risoluzione è superata perché il clima è cambiato, diceva una cosa che non era vera. Il clima non era cambiato per niente sotto il governo Draghi. Adesso il clima è cambiato. E mentre allora Bonaccini non contestava minimamente il DDL Gelmini, adesso ha motivo di contestare il DDL Calderoli, perché il clima politico è cambiato, perché il suo puntare prima alla segreteria, poi alla presidenza del Partito Democratico, gli ha fatto fare i conti con la realtà, e cioè che non tutto il PD è per l'autonomia differenziata, che l'autonomia differenziata chiesta dall'Emilia Romagna non è vero che sia così generosa e così differente dall'autonomia differenziata chiesta dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Ma il nostro primo bisogno è che la cittadinanza venga coinvolta, venga a conoscenza di cosa significa autonomia legislativa. E questo si può raggiungere, oltre che con il nostro sforzo, con un bel forte dibattito in assemblea legislativa.